finanziaria. Ad alta voce. Piero Baldini legge Grandi speranze di Charles Dickens. Herbert ed io andavamo di male in peggio in fatto di debiti, esami della nostra situazione finanziaria, sfruttamento di margini e altre simili faccende. Il tempo passava ad ogni modo, come è suo costume, ed io diventai maggiorenne, adempiendosi così la predizione di Herbert, che lo sarei diventato senza quasi accorgermene. Anche Herbert lo era diventato 8 mesi prima, ma non avendo nulla da guadagnare col diventare maggiorenne, l'avvenimento non aveva destato una grande sensazione alla locanda di Barnard, mentre invece avevamo atteso con impazienza il mio compleanno, con un'infinità di congetture e previsioni, poiché eravamo entrambi d'opinione che difficilmente il mio tutore avrebbe potuto evitare di dirmi qualcosa di preciso in quell'occasione. Mi ero preoccupato di far sapere con esattezza a Little Britain il giorno del mio compleanno, e la vigilia ricevetti un biglietto ufficiale di Wemmick, il quale mi informava che il signor Jaggers sarebbe stato lieto di vedermi alle 5 pomeridiane di quel fatidico giorno. Questo ci persuase che qualcosa di grandioso stava per accadere, ed ero in uno stato di insolita agitazione quando mi presentai all'ufficio del mio tutore con puntualità perfetta. Nell'anticamera Wemmick mi fece le sue congratulazioni e si fregò con fare indifferente un lato del naso con un pezzo di carta ripiegato, di cui mi piacque l'aspetto, ma senza dirmi nulla al riguardo. Poi mi fece cenno di entrare nella stanza del mio tutore. Era novembre. Il mio tutore, in piedi dinanzi al fuoco, appoggiava la schiena alla caminiera, le mani sotto le code del suo Stiffelius. «Ebbene, Pip», disse. «Da oggi dovrò chiamarti signor Pip. Congratulazioni, signor Pip!» Ci stringemmo la mano. Non era tipo da lunghe strette di mano, e lo ringraziai. «Prendi una seggiola, Pip», disse il mio tutore. Seduto, mentre egli restava in piedi, fissando con occhi aggrottati la punta degli stivali, mi sentii in una condizione di inferiorità che mi rammentò quella volta nel passato quando ero stato messo sopra una pietra sepolcrale. I due macabri gesti sullo scaffale, poco lontani da lui, avevano tutta l'aria di voler fare uno stupido apoplettico tentativo di seguire la nostra conversazione. «Ora, mio giovane amico», incominciò il mio tutore, come se io fossi un testimone alla sbarra, «vorrei scambiare qualche parola con te. Vi prego, signore». «Quale supponi che sia?» disse il signor Jaggers, chinandosi innanzi per fissare il suolo e poi gettando il capo all'indietro per guardare il soffitto. «Quale supponi che sia la spesa media della tua vita?» «La spesa media, signore?» «La spesa», ripeté il signor Jaggers, sempre fissando il soffitto, «media». Poi si guardò attorno nella stanza e si fermò con il fazzoletto in mano a metà strada dal naso. Avevo esaminato così spesso la mia situazione finanziaria da avere completamente perduto ogni nozione dei suoi termini reali. Con riluttanza mi confessai del tutto incapace di rispondere alla domanda. La risposta sembrò far piacere al signor Jaggs, che disse: «Lo pensavo», e si soffiò il naso con aria soddisfatta. «Ora io ho fatto a te una domanda, amico mio», disse il signor Jaggs. «Tu non hai nulla da chiedere a me?» Naturalmente mi sarebbe di grande sollievo potervi rivolgere parecchie domande, signor Jaggers, ma non dimentico la vostra proibizione. Rivolgimene una, disse il signor Jaggers. Saprò oggi chi è il mio benefattore? No. Fammene un'altra. Questa confidenza mi sarà fatta presto? Lascia questa in sospeso per un istante e fammene un'altra. Mi guardai attorno con l'impressione che questa volta non fosse assolutamente possibile di evitare la domanda. Devo ricevere qualcosa, signore? Anche il signor Jaggers esclamò trionfante. Lo sapevo che saremmo arrivati a questo. E disse a Wemmick di dargli quel pezzo di carta. Wemmick apparve, lo consegnò e scomparve. Ora, signor Pip, disse il signor Jaggers, vogliate prestarmi attenzione. Voi avete prelevato con discreta prodigalità. Il vostro nome si incontra abbastanza spesso nei conti di cassa di Wemmick, ma naturalmente avete dei debiti. E temo di dover dire di sì. Sapete che dovete dire di sì, vero? Disse il signor Jaggers. Sì, signore. Io non vi domando quanto dovete, perché non lo sapete e se lo sapeste non me lo direste. Direste meno. Sì, sì, amico mio, gridò il signor Jaggers agitando il suo indice per fermarmi, poiché mi accingevo a protestare. È abbastanza probabile che voi pensiate che non lo fareste, ma lo fareste. Scusatemi, ma ne so più di voi. Ora prendete questo pezzo di carta. Lo avete? Bene. Ora spiegatelo e ditemi che cos'è. È un assegno, dissi io, di 500 sterline. È un assegno, ripeté il signor Jaggers, di 500 sterline. Ed è una bella somma, mi pare. Non siete di questo parere? E come potrei non esserlo? Rispondete alla mia domanda, disse il signor Jaggers. Indubbiamente. La considerate indubbiamente una bella somma. Ora questa bella somma è vostra. È un regalo per voi in questo giorno, quale acconto sulle vostre speranze. Con questa bella somma annuale, e non di più, voi dovrete vivere finché il donatore di tutto non si farà conoscere. Cioè d'ora innanzi voi vi occuperete personalmente di tutti i vostri affari. Preleverete da voi 125 sterline ogni trimestre, finché non sarete in comunicazione diretta con la fonte originale e non più con un semplice agente. Come vi ho già detto, io non sono che un agente. Eseguo le istruzioni che ricevo e sono pagato per farlo. Le ritengo imprudenti, ma non sono pagato per dare un'opinione sul loro merito. Mi accingevo ad esprimere la mia gratitudine per il mio benefattore, per la grande generosità dimostrata nei miei riguardi, quando il signor Jaggers mi interruppe. «Non sono pagato, Pip», disse freddamente, «per riferire le vostre parole a qualcuno». Poi raccolse le code del suo Stiffelius, dopo aver chiuso l'argomento, e rimase a guardare con cipiglio le sue scarpe, come se le sospettasse di complotto contro di lui. Dopo una pausa, azzardai. «Vi ho fatto una domanda poco fa, signor Jaggers, che voi mi avete chiesto di lasciare per il momento in sospeso. Spero di non fare nulla di male nel ripeterla». «Cos'è?» «Avrei dovuto sapere che egli non mi avrebbe mai aiutato, ma mi sconcertò il fatto di dover ripetere la domanda, come se gli fosse del tutto ignota. Vi è la probabilità che il mio protettore, la fonte originale cui voi, signor Jaggers, avete accennato, presto...» E lì mi fermai per delicatezza. «Presto cosa?» domandò il signor Jaggers. «Finora non avete fatto nessuna domanda». «Che presto venga a Londra!» dissi, dovrebbe cercare una domanda da voce risata. «O mi convochi in qualche altro luogo!» «Ebbene...» disse il signor Jaggers fissandomi per la prima volta con i suoi occhi scuri e infossati. «Dobbiamo tornare alla sera in cui per la prima volta ci incontrammo nel vostro villaggio. Che cosa ti dissi allora, Pip?» Mi diceste, signor Jaggers, che sarebbero passati degli anni prima che quella persona fosse comparsa. Proprio così, disse il signor Jaggers. Questa è la mia risposta. Mentre ci guardavamo fissamente in viso, sentì il mio respiro farsi più rapido per l'ardente desiderio di cavare qualcosa da lui. E mentre sentivo questo, sentii che anche egli se ne accorgeva e che la mia possibilità di cavare qualcosa da lui era più tenue che mai. Supponete che ciò avverrà tra anni, signor Jaggers? Il mio tutore scrollò il capo, non per rispondere negativamente alla domanda, ma per negare in modo definitivo che egli potesse in alcun modo essere indotto a rispondere. E i due orridi gesti dalle facce contorte, quando i miei occhi vaganti si posarono su di essi, parvero giunti ad un momento di crisi nella loro sospesa attenzione ed essere sul punto di starnutire. «Via!» disse il signor Jaggers scaldandosi la parte posteriore delle gambe con il dorso riscaldato delle mani. «Sarò franco con voi. Questa è una domanda che non deve essere fatta. Lo capirete meglio se vi dico che è una domanda che potrebbe compromettere me. Via. Mi spingerò ancora più in là. Dirò qualcosa di più.» Si chinò così in basso per guardare corrucciato i suoi stivaletti, da aver modo di fregarsi i polpacci in tale posizione. «Quando quella persona si rivelerà», disse il signor Jaggers raddrizzandosi, «voi e quella persona sistemerete i vostri rapporti. Quando quella persona si rivelerà, la mia parte in questa faccenda finirà definitivamente. Quando quella persona si rivelerà, non sarà necessario che io ne sappia più niente. Ecco, è tutto quanto posso dire.» Ci guardammo negli occhi, finché io ritrassi i miei e guardai pensieroso per terra. Da queste ultime frasi mi era rimasta l'impressione che la signorina Evisham, per una qualche sua ragione o senza ragione, non gli avesse detto di avermi destinato ad Estella, che egli se ne risentisse e ne provasse invidia, o che realmente gli fosse contrario a quel progetto e non volesse entrarci per niente. Quando rialzai gli occhi mi accorsi che in tutto quel tempo egli aveva continuato a guardarmi con aria perspicace, e lo faceva ancora. «Se questo è tutto quanto avete da dirmi, osservai, non posso aver più nulla da dire.» In realtà, quando le 500 sterline mi erano entrate in tasca, si era rafforzato un pensiero che già covavo da parecchio tempo. E mi sembrò che Wemmick fosse la persona adatta a cui chiedere un consiglio al riguardo. Egli aveva già chiuso a chiave la cassaforte e fatto i preparativi per tornarsene a casa. S'era alzato dalla scrivania e, presi i suoi due sporchi candelieri d'ufficio, li aveva messi in fila con gli spegnitoi sopra una mensola, accanto alla porta, pronti per essere spenti. Aveva ricoperto di cenere il fuoco, preparato il cappello e il pastrano e si stava percuotendo tutto il torace con la chiave della cassaforte. Quale esercizio ginnico dopo il lavoro! «Wemmick», dissi, «ho bisogno della vostra opinione. Vorrei tanto aiutare un amico.» Wemmick restrinse la sua buca delle lettere e scrollò il capo, come se fosse d'opinione contraria a qualsiasi debolezza del genere. «Questo amico», proseguì, «sta cercando di farsi una posizione nell'ambiente commerciale, ma non ha denari e trova difficile sfondare. Ora vorrei fare qualcosa per aiutarlo a sfondare.» «Con denaro contante?» disse Wemmick in un tono più asciutto di qualsiasi segatura. «Con un po' di contante», risposi, «con un po' di contante e forse qualche anticipazione sulle mie speranze future.» «Signor Pip», disse Wemmick, «vorrei ripassare con voi sulle mie dita, per favore, i nomi dei vari ponti di Londra fino a Chelsea. Vediamo un po'. C'è quello di Londra, e uno, quello di Southwark, e due, di Blackfriars, e tre, di Waterloo, e quattro, di Westminster, e cinque, di Vauxhall, e sei.» Riscontrava ogni ponte con un colpo sulla palma della mano con la chiave della cassaforte. Ce ne sono ben 6 tra cui scegliere. Non vi capisco, dissi io. Scegliete il vostro ponte, signor Pip, ribatté Wemmick, e fate una passeggiatina su quel ponte e buttate il vostro denaro nel Tamigi dall'arco centrale del ponte e sapete come finirà. Aiutate un amico con lo stesso denaro e ne saprete ugualmente la fine, ma sarà una fine meno piacevole ed utile. Avrei potuto imbucare un giornale nella sua bocca, tanto la spalancò, dopo aver detto questo. Questo è molto scoraggiante, dissi. Voleva esserlo. Allora, secondo voi, mi informai con una certa indignazione, un uomo non dovrebbe mai investire dei beni mobili in un amico, disse Wemmick. Certamente non lo dovrebbe fare, a meno che voglia sbarazzarsi dell'amico. E allora il problema diventa quello di vedere quanto bene mobile conviene dare per riuscire a sbarazzarsi di lui. E questa, dissi, è la vostra decisa opinione? Questa, egli ribatté, la mia decisa opinione in questo ufficio. Il nostro dialogo si era svolto a bassa voce, poiché sapevo che le orecchie del mio tutore erano tra le più fini mai esistite. Ora egli apparve sulla soglia del suo ufficio asciugandosi le mani. Wemmick indossò il suo pastrano e si preparò a spegnere le candele. Uscimmo tutti e tre in strada e Wemmick svoltò da un lato ed il signor Jaggers ed io dall'altro. Era sconfortante il giorno dei miei 21 anni dover riflettere che a quanto pareva non valeva proprio la pena di vivere in un mondo così circospetto e sospettoso, come lo riduceva lui. Era 1000 volte meglio informato e più esperto di Wemmick, eppure avrei preferito 1000 volte avere Wemmick a pranzo. E il signor Jaggers riuscì a rendere profondamente malinconico non soltanto me, perché dopo che egli se ne fu andato, Herbert mi disse, con gli occhi fissi sul fuoco, che gli sembrava di aver commesso una bassezza e di averne dimenticato i particolari. Tanto si sentiva colpevole e depresso. Pensando che la domenica fosse il giorno migliore per sondare rapido ogni signor Wemmick, dedicai il successivo pomeriggio domenicale a un pellegrinaggio al castello. Nell'arrivare dinanzi alle mura merlate, trovai la bandiera che sventolava e il ponte levatoio alzato. Ma senza lasciarmi scoraggiare da questi segni di sfida e resistenza, suonai al cancello e fui fatto entrare nel modo più pacifico dall'anziano padre. «Il mio figliolo», disse egli dopo aver abbassato il ponte levatoio, «pensava che forse voi sareste capitato qui e ha lasciato detto che sarebbe stato presto di ritorno dalla sua passeggiata pomeridiana». «È molto metodico nelle sue passeggiate, il mio figliolo». «Molto metodico in ogni cosa, è il mio figliuolo!» Fece un inchino al vecchio signore, come avrebbe potuto farlo lo stesso Wemmick. Entrammo e ci mettemmo a sedere accanto al fuoco. «Avrete fatto conoscenza con il mio figliuolo nel suo ufficio, immagino?» disse il vecchio con la sua voce pigolante, mentre si riscaldava le mani alla fiamma. Assentii. «Ah, ho sentito dire che il mio figliuolo è magnifico nel suo lavoro d'ufficio!» assentii con decisione. Sì, così mi dicono. Si occupa di giurisprudenza. Assentii con decisione anche maggiore. Ciò rende la cosa ancora più sorprendente, disse il vecchio, perché mio figlio non era destinato ad occuparsi di giurisprudenza, ma a fare il vinaio. Trasalii per un improvviso scatto. In una parete laterale del camino vidi apparire magicamente una tavoletta di legno con soprascritto John. Il vecchio, seguendo il mio sguardo, gridò trionfante: «Mio figlio è arrivato!» E ci precipitammo tutti e due verso il ponte levatoio. Era uno spettacolo che valeva qualsiasi somma a quello di Wemmick, che ci salutava dall'altra parte del fosso, quando sarebbe stato tanto facile di stringerci la mano attraverso ad esso. L'anziano si divertiva tanto a manovrare il ponte che non mi offersi di aiutarlo, ma aspettai che Wemmick, dopo averlo attraversato, mi presentasse alla signorina Skiffins, che lo accompagnava. Era una giovane donna con un che di legnoso, e a somiglianza del suo compagno con una bocca a buca delle lettere. Poteva avere 2 o 3 anni meno di Wemmick e la giudicai provvista di beni mobili. Il taglio del suo vestito dalla cintola in su, sia davanti che di dietro, la faceva rassomigliare all'aquilone di un ragazzino e si poteva dire a colpo d'occhio che la sua veste era di un arancione un po' troppo forte e i suoi guanti di un verde un po' troppo intenso. Ma sembrava una brava donna, molto deferente verso l'anziano. Non mi ci volle molto per scoprire che era una visitatrice assidua del castello. Infatti, non appena entrati, avendo io complimentato Wemmick per l'ingegnoso dispositivo che lo annunciava al padre, egli mi pregò di dedicare per un istante la mia attenzione all'altro lato del camino e scomparve. Poco dopo si sentì un altro scatto e un altro sportellino si aprì con la scritta «Signorina Skiffins». Poi la signorina Skiffins si richiuse e si aprì «John». Poi la signorina Skiffins e John comparvero insieme e insieme finalmente si richiusero. Mentre la signorina Skiffins si toglieva il cappello, conservò i guanti verdi durante tutta l'intera serata quale segno esteriore e visibile che c'era un ospite, Wemmick mi invitò a fare con lui un giretto nella proprietà. Avevo ponderato la cosa accuratamente, perciò iniziai il discorso come se non fosse mai stata fatta alcuna allusione all'argomento. Informai Wemmick che ero preoccupato per Herbert Pocket e gli raccontai come ci eravamo conosciuti, come avessimo lottato insieme. Accennai brevemente alla famiglia di Herbert e al suo carattere, al fatto che egli non aveva altri mezzi se non quelli incerti ed irregolari e gli chiedeva di padre. Feci anche menzione dei vantaggi che io avevo tratto dalla sua compagnia nella mia iniziale ignoranza degli usi sociali e confessai che temevo di averlo ripagato ben male, perché senza di me e senza le mie speranze egli si sarebbe trovato in migliori condizioni. Per tutte queste ragioni, disse a Wemmick, e poiché egli era un compagno e amico a cui ero molto affezionato, desideravo che la mia sorte fortunata si riversasse in parte su di lui. E perciò chiedevo all'esperienza di Wemmick e alla sua conoscenza degli uomini e della vita un consiglio sul modo migliore per riuscire con le mie risorse a offrire a Herbert una rendita, ad esempio di 100 sterline l'anno. E che lui, Wemmick, era la sola persona al mondo alla quale potevo chiedere consiglio per questa faccenda. Alla fine, mettendogli una mano sulla spalla, conclusi: «Non posso fare a meno di confidarmi con voi, benché sappia che ciò vi disturba, ma la colpa è vostra per avermi portato qui». Wemmick rimase un minuto in silenzio, poi disse quasi di slancio: «Bene, sapete, signor Pip, devo dirvi una cosa. È maledettamente generoso da parte vostra». «Ed allora aiutatemi ad essere generoso». «Rifletterò sulla cosa. E ritengo che tutto quanto volete fare possa essere fatto per gradi. Skiffins, cioè il fratello della signorina, è cassiere in una banca. Passerò da lui e gli parlerò della cosa. Vi ringrazio 10.000 volte. «Al contrario», disse lui, «sono io a ringraziarvi. Perché, per quanto siamo qui nel pieno possesso della nostra libertà personale, eppure si può dire che restano sempre attorno a noi delle ragnatele di Newgate. E una cosa come questa le spazza via».